Bene, adesso possiamo procedere. Fred, lo sapete, si è laureato. Fino a questo punto ci è arrivato. E ora la domanda è: cosa deve fare? La domanda è così difficile che egli è propenso a secondare i desideri di suo padre e farsi prete, sebbene sappiate meglio di me che in precedenza era del tutto contrario a ciò. L'ho interrogato sull'argomento e confesso di non vedere alcun ostacolo insuperabile che impedisca che si faccia prete. Così come stanno le cose. Lui dice che potrebbe convincersi a fare del proprio meglio in quel campo, a una condizione. Se quella condizione fosse soddisfatta, io farei tutto il possibile per aiutare Fred a proseguire. Dopo un certo tempo, non in principio naturalmente, potrebbe venire con me come mio curato e avrebbe tante cose da fare, che il suo stipendio sarebbe quasi quello che prendevo io da parroco. Ma ripeto, c'è una condizione senza la quale tutto questo non può avere luogo. Mi ha aperto il cuore, Miss Gerd, e mi ha chiesto di intercedere per lui. La condizione sta tutta nei vostri sentimenti. Mary apparve così commossa che dopo un attimo gli disse: camminiamo un po'. E quando stavano passeggiando soggiunse: per parlare in tutta franchezza, Fred non prenderà nessuna strada che potrebbe diminuire le possibilità che voi acconsentiate a diventare sua moglie. Ma con questa prospettiva, egli cercherà di fare del suo meglio in qualsiasi lavoro che voi approverete. Io non posso proprio dire che non sarò mai sua moglie, Mr. Fairbrother, ma certamente non sarò mai sua moglie se diventerà un prete. Quello che voi dite è molto generoso e gentile. Non intendo neppure per un momento correggere il vostro giudizio. È solo che io ho il mio modo giovanile e beffardo di guardare le cose, disse Mary, con una nuova scintilla di giocosità nella propria risposta che ne rese soltanto più incantevole la modestia. Lui desidera che io gli riferisca esattamente quello che pensate, disse Mr. Fairbrother. Non potrei amare un uomo che è ridicolo, disse Mary, preferendo non approfondire. Fred ha buon senso e condizioni sufficienti che lo possono rendere rispettabile se lui vuole, in qualche lavoro mondano. Ma non potrò mai immaginarmelo a predicare, ad esortare, a pronunciare benedizioni e pregare accanto ai malati, senza la sensazione di osservare una caricatura. Il fatto di farsi prete sarebbe solo per amore di signorilità, e io penso che non ci sia niente di più spregevole di una simile imbecille signorilità. Pensavo questo a proposito di Mr. Cruz, con la sua faccia vuota e l'ombrello in ordine, i suoi discorsetti smancerosi. Che diritto hanno tali persone di rappresentare il cristianesimo? Come se fosse un'istituzione per tirar su degli idioti in modo signorile, come se... Mary si frenò. Si era lasciata trasportare come se stesse parlando a Fred invece che a Mr. Fairbrother. Le signorine sono severe, non sentono il peso dell'azione come gli uomini. Per quanto forse potrei fare un'eccezione per voi in questo caso. Ma non mi mettete Fred Vinci a un livello così basso. No, veramente. Ha buon senso in abbondanza, ma penso che non lo mostrerebbe facendo il prete. Sarebbe un esemplare di affettazione professionale. Allora la risposta è del tutto chiara. Come prete non potrebbe avere nessuna speranza? Mary scosse il capo. Ma se sfidasse tutte le difficoltà per guadagnarsi da vivere in qualche altro modo, gli darete l'appoggio della speranza? Può sperare di conquistarvi. Penso che Fred non dovrebbe aver bisogno che gli ripeta ciò che gli ho già detto, rispose Mary con un lieve risentimento nel modo di fare. Voglio dire che non dovrebbe farmi simili domande finché non ha fatto qualcosa di meritevole invece di dire che potrebbe farlo. Mr. Fairbrother rimase muto per un minuto o più e poi, mentre svoltavano e si fermavano all'ombra di un acero al termine di un sentiero erboso, disse: mi pare di capire che vi opponete a qualsiasi tentativo di farvi prigioniera, ma o i vostri sentimenti per Fred Vinci escludono che abbiate un altro attaccamento oppure no, o lui può contare sul fatto che voi resterete nubile finché non si sarà guadagnato la vostra mano. Oppure può darsi che in qualsiasi caso rimanga deluso. Perdonatemi, Mary, ero solito insegnarvi il catechismo chiamandovi così. Ma quando gli affetti di una donna interessano la felicità di un'altra vita, o più di una vita, per Penso che il comportamento più nobile per lei sarebbe di essere perfettamente franca e aperta. Mary a sua volta rimase muta, stupita non dal modo di Mr. Fairbrother, ma dal suo tono, in cui vi era un'intensa emozione contenuta. Quando le balenò per la mente la strana idea che le sue parole si riferissero a lui stesso, rimase incredula e si vergognò di un simile pensiero. Non aveva mai pensato che nessun uomo potesse amarla tranne Fred, il quale l'aveva sposata col cerchietto dell'ombrello quando lei portava i calzerotti e delle scarpine col cinturino. Ancor meno di poter avere una qualsiasi importanza per Mr. Fairbrother, l'uomo più intelligente della sua ristretta cerchia. Ebbe solo il tempo per avvertire che tutto ciò era confuso e forse illusorio, ma una cosa fu chiara e decisa: la sua risposta. Dal momento che pensate che sia mio dovere, Mr. Fairbrother, vi dirò che nutro un sentimento troppo forte per Fred, per rinunciare a lui per una qualsiasi altra persona. Non sarei mai del tutto felice se pensassi che egli fosse infelice perché gli manco io. Si è così radicata in me la mia gratitudine verso di lui per avermi sempre amata più di tutte, ed essersi tanto preoccupato se mi facevo male, fin dal tempo in cui eravamo assai piccoli. Non posso immaginare che sopraggiunga alcun nuovo sentimento a indebolire quello. Vorrei più di qualsiasi cosa vederlo degno del rispetto di ognuno, ma vi prego di dirgli che non gli prometterò di sposarlo fino ad allora. Recherei dolore e vergogna a mio padre e a mia madre. Lui è libero di scegliere qualcun'altra. Allora ho compiuto interamente la mia missione, disse Mr. Fairbrother, porgendo la mano a Mary, e tornerò a Middlemarch immediatamente. Con questa prospettiva davanti, in qualche modo, metteremo Fred sulla strada giusta e spero di vivere per congiungere le vostre mani. Dio vi benedica. Oh, vi prego, restate e lasciate che vi dia un po' di tè, disse Mary. I suoi occhi si colmarono di lacrime, perché qualcosa di indefinibile, qualcosa come la risoluta soppressione di un dolore nel comportamento di Mr. Fairbrother, la fece sentire improvvisamente triste, come una volta quando aveva visto le mani del padre tremare in un momento di sofferenza. No, mia cara, no, devo tornare. Nel giro di 3 minuti il parroco fu in sella di nuovo, dopo aver eseguito con magnanimità un dovere molto più duro della rinuncia al whist, o addirittura della composizione di meditazioni penitenziali. Capitolo 53. Mr. Bulstrode, quando sperava di acquisire un nuovo interesse per Lowick, aveva naturalmente desiderato in modo particolare che il nuovo prete fosse uno di suo totale gradimento e giudicò che fosse un castigo e una ammonizione per i propri difetti e quelli della nazione in generale il fatto che proprio nel periodo in cui giunse in possesso dei documenti che lo rendevano proprietario di Stonecourt, Mr. Fairbrother pronunciasse il giuramento sui 39 articoli che gli dava l'accesso alla pittoresca chiesetta e predicasse il suo primo sermone ai fedeli composti di contadini, braccianti e artigiani del villaggio. Non che Mr. Bulstrode intendesse frequentare la chiesa di Lowick o risiedere a Stonecourt prima che fosse trascorso un lungo periodo. Aveva acquistato l'eccellente fattoria e la bella casa semplicemente come un rifugio che avrebbe potuto poco a poco ampliare, per quanto riguarda la tenuta ed abbellire, per quanto riguarda l'abitazione, finché non avesse ritenuto vantaggioso per il conseguimento della gloria divina che egli vi si installasse come in una residenza, ritirandosi in parte dalle attuali fatiche della conduzione degli affari e gettando in misura più cospicua dalla parte della verità evangelica il peso della proprietà terriera locale, che la provvidenza avrebbe potuto accrescere grazie a impreviste occasioni di acquisto. Una forte spinta in questa direzione sembrava che gli fosse stata data dalla sorprendente facilità con cui si era appropriato di Stonecourt, quando tutti si erano aspettati che Mr. Rigfer Stone vi sarebbe rimasto attaccato come il giardino dell'Eden. Ciò era quello che si era atteso il povero vecchio Peter stesso, quando spesso, con gli occhi dell'immaginazione, alzava lo sguardo fra le zolle che lo ricoprivano e, non impedito dalla prospettiva, vedeva il suo legatario dalla faccia di rana godersi quel bel luogo antico a perpetua sorpresa e disappunto di altri sopravvissuti. Ma come conosciamo poco ciò che costituirebbe il paradiso per il nostro prossimo? Giudichiamo in base ai nostri desideri e il nostro prossimo stesso non è spesso abbastanza franco da darci almeno un indizio sui propri. Il Il freddo e giudizioso Joshua Rigg non aveva concesso al genitore di rendersi conto che Stone Cour fosse a suo occhio inferiore al bene supremo, anche se certo aveva desiderato chiamarlo proprio. Ma come Warren Hastings guardava l'oro e pensava a comprare Daly's Ford, così Joshua Rigg guardava Stone Cour e pensava a comprare oro. Aveva una concezione assai distinta e intensa del suo bene supremo, dal momento che la forte brama che aveva ereditato aveva assunto una forma speciale in seguito alle circostanze, e il suo bene supremo era di fare il cambiavalute. Dal tempo del suo primo impiego di fattorino in una città di mare, aveva guardato attraverso le vetrine dei cambiavalute come altri ragazzi guardano attraverso le vetrine dei pasticceri. Il fascino si era trasformato poco a poco in una profonda passione particolare. Quando avesse avuto una proprietà, era sua intenzione fare molte cose, tra le quali sposare una giovane persona distinta, ma questi erano tutti casi fortuiti e gioie di cui l'immaginazione poteva fare a meno. L'unica gioia che la sua anima bramava era di possedere un negozio di cambiavalute su un molo assai frequentato, avere serrature tutto intorno a sé di cui egli teneva le chiavi e conservare un aspetto di sublime freddezza mentre manipolava le monete di tutte le nazioni che si moltiplicavano, mentre l'inerme cupidigia lo guardava invidiosa dall'altro lato di una griglia di ferro. Il vigore di quella passione era stata una forza che gli aveva dato la capacità di impadronirsi di tutte le nozioni necessarie per gratificarla. E quando altri pensavano che si fosse stabilito a Stone Cour per tutta la vita, Joshua stesso pensava che non era lontano il momento in cui si sarebbe stabilito al Molo Nord col miglior arredamento di casseforti e serrature. Basta! Ci interessa considerare la vendita della terra di Joshua Rigg dal punto di vista di Bulstrode, e questi la interpretò come un rallegrante dono divino che forse sanzionava un progetto che covava da un po' di tempo senza alcun incoraggiamento esterno. Egli la interpretò così, ma non troppo fiduciosamente, innalzando ringraziamenti con una fraseologia guardinga. I suoi dubbi non nascevano dai possibili rapporti dell'avvenimento col destino di Joshua Rigg, che apparteneva alle regioni inesplorate e trascurate, tranne forse in un imperfetto modo coloniale dal governo della Provvidenza. Ma sorgevano dalla riflessione che anche questo dono potesse essere per lui un castigo, come lo era chiaramente l'affidamento della parrocchia a Mr. Fairbrother. Questo non era ciò che Mr. Bulstrode diceva a chiunque allo scopo di trarlo in inganno. Era ciò che diceva a se stesso. Era il suo modo di spiegare gli eventi, altrettanto genuino quanto lo può essere qualsiasi vostra teoria se per caso non siete d'accordo con lui. Perché l'egoismo che entra nelle nostre teorie non influisce sulla loro sincerità, anzi, quanto più soddisfatto è il nostro egoismo, tanto più forte è la nostra credenza. Tuttavia, o per approvazione o per castigo, Mr. Bulstrode, neppure 15 mesi dopo la morte di Peter Fairstone, era divenuto il proprietario di Stone Cour. E ciò che avrebbe detto Peter, se avesse potuto saperlo, era divenuto argomento inesauribile e consolante di una conversazione per i suoi parenti delusi. La situazione ora si era capovolta per quel caro fratello estinto e la contemplazione della sua astuzia, frustrata dall'astuzia superiore delle cose in generale, era una fonte di meditazione deliziosa per Solomon. Mrs. Whale godeva del malinconico trionfo della dimostrazione che non serviva fare dei falsi Fairstone ed escludere i veri, e sorella Martha, nel ricevere la notizia ai Chelsea Flats, esclamò: «Dio mio, allora l'onnipotente dopo tutto non sarebbe stato così contento delle case di riposo». L'affettuosa Mrs. Bulstrode era particolarmente lieta del vantaggio che la salute del marito avrebbe tratto dall'acquisto di Stone Cour. Passavano pochi giorni senza che egli si recasse là a ispezionare qualche parte della fattoria con l'amministratore e le serate erano deliziose in quel luogo tranquillo, quando i cumuli di fieno nuovo, ultimamente innalzati, emanavano odori che si mescolavano col soffio del vecchio giardino rigoglioso. Una sera, mentre il sole era ancora sull'orizzonte e bruciava in lampade dorate fra i grandi rami dei noci, Mr. Bulstrode era fermo a cavallo al di fuori del cancello principale in attesa di Caleb Garth ed era stato convocato per esprimere un parere su una questione di drenaggio della stalla e ora stava dando consigli all'amministratore dell'aia. Mr. Bulstrode era consapevole di essere in una buona disposizione di spirito e sereno più del consueto, esposto all'influsso di questa distrazione innocente. Era teoricamente convinto che lui ci fosse una totale assenza di merito, ma quella convinzione teorica si può intrattenere senza dolore quando il senso della mancanza di merito non assume una forma distinta nel ricordo e fa rivivere il fremito della vergogna e il dolore del rimorso. Anzi, si può intrattenere con intensa soddisfazione quando la profondità del nostro peccare non è che la misura della profondità del perdono e una decisiva dimostrazione che siamo strumenti particolari delle intenzioni divine. La memoria ha tanti umori quanto il carattere e cambia scena come in un diorama. In questo momento a Mr. Bulstrode parve che la luce del sole fosse la stessa di quelle serate lontane quando era assai giovane ed era solito uscire per andare a predicare oltre Highbury. E ora avrebbe volentieri accettato quella prospettiva di andare ad esortare la gente. I testi erano ancora là e così pure la sua facilità nell'esporli. La sua breve fantasticheria fu interrotta dal ritorno di Caleb Garth, che anche egli a cavallo stava proprio scuotendo le briglia prima di partire, quando esclamò: «Santo cielo! Chi è quel tipo in nero che arriva dal viale? Sembra uno di quegli uomini che si vedono in giro dopo le corse!» Mister Balstrow voltò il cavallo e guardò lungo il viale, ma non rispose nulla. Chi si stava avvicinando era la nostra nuova conoscenza. Mr. Raffles, il cui aspetto non presentava altro cambiamento tranne quello dovuto a un abito nero e un nastro di crespo attorno al cappello. Adesso era giunto a 3 metri dagli uomini a cavallo ed essi poterono scorgere il lampo di riconoscimento sul suo volto mentre girava il bastone verso l'alto, guardando sempre Mr. Bulstrode e infine esclamando: «Per giovane che sei tu! Non potrei sbagliarti, anche se i 25 anni hanno giocato un brutto tiro a tutti e due. Come stai, eh? Non ti aspettavi di vedermi qui? Andiamo, dammi la mano!» Dire che il comportamento di Mr. Raffles era stato eccitato sarebbe stato un modo di dire che era sera. Caleb Garth notò che Mr. Balstrow ebbe un attimo di agitazione e di incertezza, ma questo terminò quando tese freddamente la mano a Raffles e disse: «Davvero non mi aspettavo di vedervi in questo remoto luogo di campagna!» «Beh, appartiene a mio figliastro!» disse Raffles assumendo un atteggiamento spavaldo. «Sono già venuto a trovarlo qui!» «Non sono così sorpreso di vedervi, vecchio mio, perché ho trovato per caso una lettera, quella che si può chiamare la mano della provvidenza. Però è una fortuna eccezionale che ti abbia incontrato, perché non mi interessa di vedere il mio figliastro. Non mi vuole bene e la sua povera madre ora è morta. Per dire la verità, sono venuto per l'amore che ti porto, Nick. Ero venuto per procurarmi il tuo indirizzo, perché... Guarda qui!» Raffles estrasse dalla propria tasca una carta gualcita. Quasi chiunque altro, tranne Caleb Garth, sarebbe stato tentato di indugiare per ascoltare tutto quello che poteva su un uomo la cui conoscenza col Balstrow sembrava rimandare a momenti della vita del banchiere così diversi da tutto ciò che si conosceva di lui a Middlemarch, davvero la natura di un segreto che stuzzica la curiosità. Ma Caleb era un tipo particolare, certe tendenze umane, che sono comunemente forti, erano quasi assenti dal suo carattere e una di queste era la curiosità per le faccende personali. Soprattutto se c'era da scoprire qualcosa di disonorevole riguardo a un'altra persona. Caleb preferiva non venirne a conoscenza e se doveva dire a chiunque le sue dipendenze che le sue malefatte erano scoperte, egli era più imbarazzato del colpevole. A questo punto spronò il cavallo e dicendo: «Vi auguro buonanotte, Mr. Balstrow, devo andare a casa», si allontanò al trotto. «Non hai messo il tuo indirizzo per esteso in questa lettera?» continuò Raffles. «Non è da quell'uomo d'affari di prim'ordine che eri solito essere. The Shraps potrebbero essere da qualsiasi parte. Vivi nelle vicinanze, eh? Hai lasciato completamente perdere la ditta di Londra. Magari sei diventato un signorotto di campagna in un palazzo di campagna dove invitarmi. Dio, quanti anni sono passati? La vecchia signora deve essere morta da un pezzo, ascesa alla gloria senza il dolore di sapere com'era povera sua figlia, eh? Ma per Giove, sei molto pallido e sbiancato, Nick. Andiamo, se sei diretto a casa, camminerò al tuo fianco.» Il pallore consueto di Mr. Balstrow aveva effettivamente assunto una sfumatura mortale. 5 minuti prima, la distesa della sua esistenza era stata immersa nel sole del suo tramonto, che risplendeva retrospettivamente sul mattino del suo ricordo. Il peccato sembrava una questione teorica e di penitenza interiore, l'umiliazione un esercizio da tavolino, la portata delle sue azioni una questione di visione personale regolata solo da relazioni spirituali e concezioni degli scopi divini. Ed ora, come per qualche spaventosa magia, questa fragorosa figura in rosso era sorta davanti a lui con una spigolosa solidità, un passato personificato che non era entrato nel novero dei castighi da lui immaginati. Ma il pensiero di Mr. Balstrow era all'opera ed egli non era uomo da parlare o agire avventatamente. Stavo andando a casa, disse, ma posso rimandare un po' la mia cavalcata e voi se volete potete riposarvi qui. Grazie, disse Raffles facendo una smorfia. Adesso non mi importa di vedere il mio figliastro, preferirei venire a casa con te. Il vostro figliastro, se era Mr. Rigg Fairstone, non sta più qui. Ora il padrone sono io, qui. Raffles fece tanto d'occhi ed emise un lungo fischio di sorpresa prima di dire: Beh, allora non ho obiezioni. Ho camminato abbastanza dalla diligenza. Non sono mai stato un gran camminatore neppure un cavallerizzo. Quello che mi piace è un veicolo elegante e un cavallino impetuoso. Sono stato sempre un po' pesante in sella. Che piacevole sorpresa deve essere per te vedermi, vecchio mio! Egli continuò mentre si giravano verso la casa. Tu non lo confessi? Ma non hai mai preso la tua fortuna con grande entusiasmo. Pensavi sempre di migliorare l'occasione. Avevi una tale capacità di migliorare la tua fortuna. Mr. Raffles sembrava trarre gran piacere dal proprio spirito e dondolava la gamba in modo spavaldo, il che mise assai a dura prova la giudiziosa pazienza dell'amico. Se ricordo bene, osservò Mr. Balstrow con fredda collera. La nostra conoscenza molti anni fa non aveva il genere di intimità che ora state assumendo, Mr. Raffles. Qualsiasi servigio desideriate da me vi farà più prontamente reso se eviterete un tono di familiarità che non entrava nei nostri rapporti precedenti e ben difficilmente può essere giustificato da più di 20 anni di separazione. Non ti piace essere chiamato Nick? Ma come? Ti ho sempre chiamato Nick in cuor mio e sebbene ti abbia perso di vista sei stato caro alla mia memoria, per Giove. I miei sentimenti per te sono stagionati come del buon vecchio cognac. Spero che ne hai un po' in casa ora. Josh mi ha riempito bene la fiaschetta l'ultima volta. Mr. Balstrow non aveva ancora appreso pienamente che persino il desiderio del cognac di Raffles non era più forte del desiderio di tormentare e che un segno di irritazione gli serviva sempre da nuovo incitamento. Ma almeno era chiaro che obiezioni ulteriori erano inutili. E Mr. Balstrow, del dare ordini alla governante perché si sistemasse l'ospite, mostrò un'aria calma e risoluta. C'era sempre il pensiero confortante che questa governante era stata anche al servizio di Rigg e avrebbe potuto credere che Mr. Balstrow intrattenesse Raffles semplicemente in quanto amico del suo padrone precedente. Quando, nel salotto rivestito dai pannelli di legno, ebbe fatto disporre davanti al proprio visitatore cibo e bevande, nella stanza non c'era nessun testimone. Mr. Balstrow disse: Le vostre abitudini e le mie sono così diverse, Mr. Raffles, che ben difficilmente l'uno potrà godere della compagnia dell'altro. Il progetto migliore per entrambi sarà quindi di separarci il più presto possibile. Dal momento che dite che desideravate incontrarmi, probabilmente pensavate di avere qualche affare da trattare con me. Ma, date le circostanze, vi inviterò a restare qui per la notte e io stesso verrò qui domani mattina presto. Prima di colazione, in effetti, quando potrò ascoltare qualsiasi comunicazione abbiate da farmi. Di tutto cuore, disse Raffles, questo è un luogo confortevole, un po' monotono per un soggiorno continuato, ma per una notte posso accontentarmi con questo buon liquore e la prospettiva di rivederti al mattino. Sei un ospite di gran lunga migliore del mio figliastro, ma Josh mi portava un po' di rancore per aver sposato sua madre, mentre fra te e me non c'è mai stato altro che gentilezza. Mr. Balstrow, sperando che quel particolare misto di giovialità e tono beffardo nel comportamento di Raffles fosse in buona misura l'effetto del bere, aveva deciso di aspettare fino a quando non fosse del tutto sobrio prima di scambiare altre parole con lui. Ma fece ritorno a casa con una visione terribilmente lucida della difficoltà che avrebbe incontrato per arrivare a un qualsiasi risultato che si potesse ritenere definitivo con lui. Era inevitabile che desiderasse sbarazzarsi di John Raffles, sebbene la sua ricomparsa non si potesse considerare estranea al progetto divino. Lo spirito del male poteva averlo inviato per minacciare il sovvertimento operato da Balstrow come strumento di bene. Ma la minaccia doveva essere stata permessa ed era un castigo di nuovo genere. Per lui era un'ora di angoscia assai diversa da quelle in cui la sua lotta era avvenuta al riparo delle sue vite private. E che era terminata con la sensazione che le sue malefatte segrete gli fossero state perdonate e i suoi servigi fossero ben accetti. Quelle malefatte, anche quando commesse, Non erano state per metà santificate dall'unicità del suo desiderio di dedicare se stesso e tutto ciò che possedeva al progresso del piano divino. E dopo tutto, egli doveva diventare un semplice ostacolo e una semplice pietra dello scandalo? Perché? Chi avrebbe capito ciò che aveva operato dentro di sé? Chi non avrebbe? Quando si fosse presentato il pretesto di gettare la vergogna su di lui, confuso tutta la sua vita e le verità che aveva abbracciato in un'unica massa di calunnie?